Rex sempiterne Domine, rerum creator omnium, qui eras ante saecula, semper cum Patre filius, qui mundi in primordio ad amplas vasti omine, Amen. ho fatto amicizia, reprova l'unfa tua, reprova tu razzio. Spertal gen divenes, Ten char su camidons flagges, Cautra voluntas num estren, Resulat nire per captem. Pos valqui nunes et vergius, Eci nun desirapis car, Eci nun sen tremet d'amar, Greu potesser galliat ni prus, Car damus ven cauci ven ves, E per amore som cortes, Et amurs don all'arte cer, Perche bun pret trub amante. Ascipo da virhe sotera guardar, O se comencima della conomar. Ed est un miragre per quenta prendi, vos cantare iora grande che Santa Maria fet e credami che maior d'este non posso contar. Asi po da virgen sotera guardar O seu comencima della onomar. Or che trovar e cosa Oh.